Allora, questa è comunicazione multimediale del venerdì e quindi si parla dei nomi collettivi. Allora, oggi volevo parlarti principalmente di San Precario, però vediamo di ricostruire, perché libri di San Precario non ce n'è, il materiale in rete si trova un po' così così. Però volevo scorrere un attimo il libro sulla comunicazione guerriglia, vedere se c'erano delle cose. Vabbè, qui c'è un sacco di materiali, però ma principalmente si parla intanto di cose dall'Europa e fuori dall'Europa. E poi ovviamente si fermano prima della grande ripresa dei movimenti. Negli anni 80 e 90 i movimenti sono stati i movimenti di contestazione nel mondo, erano un po' insomma seduti, cioè bisognava. Ci stavamo tutti più o meno leccando le ferite che ci avevano inferto alla fine degli anni 70. Però siccome qui va un po' indietro, insomma, ci sono anche delle cose di Luther Bliss, l'attacco psichico nel 95, le ultimissime cose fatte. Allora, vediamo un po' cos'è, intanto vediamo un po' questa cosa dell'attacco psichico. Insomma, cos'è questo attacco psichico? Allora, per esempio, vediamo come una cosa di Roma, questo è Luther Blissett di Roma, Ti ho già spiegato, credo che i gruppi Luther Blissett in Italia sono stati fondamentalmente due, quello di Bologna dove è nato e poi quello di Roma. Quello di Roma, e quindi ognuno dei due aveva il suo stile, insomma, diciamo lo stile di quelli di Roma, come ovvio, era quelli di Roma era un gruppetto forse anche più grosso come audience, ma insomma no, grosso vuol dire parliamo di 20 persone, 30 persone, insomma, comunque hanno fatto, la cosa più importante che hanno fatto quelli di Roma è stato l'occupazione di un tram, diciamo il dirottamento, si chiamavano di un tram in ore serali, nel tardo pomeriggio sera, adesso qui questo non c'è perché credo che l'abbiano fatto insomma dopo il 96 o il 97 comunque. Qui ci sono gli attacchi alla. Quando hanno. Insomma, praticamente sono soliti su un tram, semplicemente in 20, hanno occupato, hanno cominciato a mettere cartelli, robe, a suonare della musica, e andavano in giro ovviamente per la città, il povero guidatore del tram non sapeva ne cosa fare, dopo un po' ovviamente ha chiamato la polizia. Però è durata circa un'ora, chiaramente la polizia li ha poi sgomberati, li hanno ovviamente denunciati, qualcuno ha avuto anche il processo, insomma, non mi ricordo, una piccola roba, però insomma. No. Invece gli attacchi psichici sono delle cose. Allora, per esempio, leggiamo il comunicato, qui praticamente riporta un comunicato, Luther Blissett sferra un attacco psichico all'ufficio di collocamento di Roma. La notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno 1995, a conclusione della seconda puntata di Radio Blissett, c'era una Radio Blissett, credo, ospitata dentro una delle radio libere di Roma, o era Radio Città Futura, o non so quale, forse era un'altra radio, non lo so. Allora, a conclusione della seconda puntata di Radio Blissett sul lavoro, non lavoro e reddito di cittadinanza, circa 200 persone hanno raggiunto verso le 03 l'ufficio provinciale di notte, l'ufficio provinciale per il lavoro e la massima occupazione, per dire basta con le assunzioni, dateci i soldi direttamente, no a nuovi posti di lavoro, il lavoro fa venire il cancro, vogliamo i soldi, non il lavoro. La viabilità è stata interrotta, ovviamente alle 3 di notte che vorrei che succedesse. Molti automobilisti, convinti della giustezza della protesta, hanno preso parte all'attacco psichico. Nel frattempo alcune schegge impazzite decoravano l'edificio tetro dell'ufficio con ghirigori colorati, simboli psicogeni e scritte il tuo caos è una risorsa, esigi il reddito di cittadinanza, autogestione, no al lavoro salariato, eccetera, eccetera. Subito dopo, assumendo la formazione a Cuneo, secondo le disposizioni provenienti via etere, i convenuti hanno dato inizio all'attacco pronunciando per circa 4 minuti la sillaba OM, che tu dovresti conoscere, perché OM, quella roba lì. L'edificio ha oscillato, ma non è crollato. L'impressionante accadimento è stato ripreso per intero da una troupe della ZDF, la TV di Stato tedesca. Verso le 04 la folla è defluita in direzione di una vera falsa festa lanciata via etere durante la trasmissione. Allora, queste sono le cose. Che cosa sono questi attacchi psichici? Derivano in realtà da un, diciamo, il modello di questi attacchi psichici è una grande manifestazione, veramente grande, che ci fu, adesso l'anno non me lo ricordo preciso, però insomma, se vai un po' se vai su internet qualcosa trovi, insomma, sicuramente in inglese. Lanciato dal movimento hippie americano negli anni fine anni 60, credo nel 67, però l'anno preciso 66 o 67, in cui il movimento hippie appunto lanciò questa grande manifestazione con di fronte al Pentagono, di fronte intorno al Pentagono. Ovviamente vennero tenuti a notevole distanza dalle forze dell'ordine, ma erano veramente tanti, tipo 100.000, 200.000, sono grossi, e la parola d'ordine era fare un circolo, diciamo circondare il Pentagono e sostenersi tutti per mano così e concentrare la propria forza psichica e far levitare il Pentagono, cioè farlo sollevare. Cioè, si sono messi lì, insomma, hanno fatto questa, sono stati lì, insomma, si sono divertiti un sacco, come ovvio, insomma. Allora questa è una delle cose possibili. Quindi qui insomma, vediamo una delle caratteristiche di questi movimenti o di queste iniziative, chiamiamole di comunicazione guerriglia, di questo tipo particolare, che consiste nel prendere, diciamo, nell'assumere le cose più fantasiose, le tematiche più fantasiose dei gruppi, gli UFO, tutte queste robe qua, insomma, UFO, levitazione, e diciamo esperienze cosiddette paranormali, prenderle sul serio, cioè far finta di prenderle sul serio, evidentemente, e intorno a questo, cioè usare la stranezza il carattere francamente a volte anche improbabile bizzarro di queste impostazioni per farne, evidentemente, quello che se gli interessa non è tanto, l'obiettivo non era far sollevare il Pentagono, no, insomma, era quello, attraverso questa parola d'ordine, di radunare un grande numero di persone, quindi paradossalmente, bisogna solo vedere come si interpreta la parola d'ordine. Allora uno dice concentrazione, concentriamo la nostra energia psichica e facciamo sollevare il Pentagono, che è, come sai, è il Ministero della Difesa americano, era contro la guerra del Vietnam questa cosa, quindi era la... Allora, se noi togliamo l'ultima, conseguenza ovviamente improbabile, impossibile, che va contro le leggi fisiche sul far sollevare il Pentagono, invece il resto dell'obiettivo è un obiettivo completamente realistico, cioè concentrare l'energia di tutte queste persone, cioè farle venire insieme, metterle insieme, costruire un evento con, 31 persone e questo evento in qualche maniera concentra, come dire, davvero l'energia di queste persone. Quindi c'è una, come dire, c'è un rapporto tra obiettivo dichiarato, che ovviamente è fasullo, è ridicolo, è insomma, però se viene preso abbastanza sul serio, cioè se uno fa finta di crederci, riesce lo stesso a realizzare, allora detto in altri termini, l'obiettivo reale di queste manifestazioni non è quello dichiarato, non è quello di dire facciamo levitare il Pentagono, come non è mai quello dichiarato anche quando ti fai un nome falso, eccetera. Il nome falso si sa che è falso o che è collettivo, che è una cosa. Ma come dire, dicendo che ne so, celebriamo Luther Blissett oppure siamo Luther Blissett, facciamo, allora si sa benissimo che non è vero, che nessuno è Luther Blissett, che Luther Blissett non esiste, bla bla. Ma attraverso questa parola d'ordine si crea un risultato, come risultato è paradossalmente il mezzo scelto per arrivare all'obiettivo, diciamo, finto, falso, no? Ora, questa è una, cioè, questa è una cosa interessante, perché vuol dire che come dire, la potenza del linguaggio, la forza, diciamo, del linguaggio è tale che tollera anche, sopporta, no? Anche delle come dire, asserzioni chiaramente false, chiaramente improbabili, chiaramente impossibili da raggiungere. Però l'impossibilità è un'impossibilità relativa, perché è impossibile raggiungere l'obiettivo che tu ti sei appositamente costruito e lo hai, come dire, dichiarato e sai benissimo che non è raggiungibile, no? Però per arrivare a questo obiettivo irraggiungibile tu devi fare delle cose. Queste cose che fai, cioè gli strumenti che fai, le tappe che fai, sono il vero obiettivo, cioè mettere insieme la gente, sono il percorso, mettere insieme la gente, costruire un evento. Adesso parlando, saltando di palo in frasca, a volte anche fare intervenire la polizia davvero, cioè fare intervenire le forze dell'ordine, quindi rischiare delle cose, rischiare dei rischi fisici, manganellate, diciamo repressione fisica o guai, diciamo, giudiziari, ma per, come dire, se tu hai sufficiente fiducia, se sei convinto che la cosa che stai per fare sia realmente importante, in certi momenti, non puoi farlo neanche tutti i giorni, tutti i momenti della tua giornata, ma in qualche momento puoi fare delle cose. Quando Bifo e io siamo andati nella primavera di quest'anno ad occupare la borsa, come dire, sapevamo che non era possibile stare, però rapida cosa, si inganna la polizia, si entra lì, si fa anche solo stare un quarto d'ora dentro e creare il casino, fare là, è ovvio che è intervenuta la polizia, nel giro di 20 minuti ci ha sgombrato, però siamo stati un quarto d'ora lì dentro, un'ora fuori, perché poi a questo punto ti sei procurato una specie di piccola posizione di forza, anche se eravamo pochissimi, cioè c'erano 50 studenti, insomma, e con Bifo e me che facevamo il professor Berardi e io che facevamo quella parte di quelli che volevano fare lezione sull'economia mondiale all'interno della borsa, che era un'istituzione economica, quindi per mostrare ai giovani, quindi tutto, allora era ovvio che era un obiettivo finto, cioè inutile, sappiamo bene, oppure impossibile, sapevamo che non si sarebbe potuto fare, però attraverso quello siamo riusciti a fare questa cosa. E per cui siamo riusciti a stare poi 40 minuti, 45 minuti, almeno fuori, sulle scale, eccetera, a fare una lezione, che poi di fatto era una piccola riunione politica, insomma, ovviamente un comizio, eccetera, però con la polizia davanti, che ha... Allora, questo è spesso l'obiettivo di questo genere di, diciamo, azioni, giocare su una... alzare di molto la posta e quindi dichiarare un obiettivo ufficiale, chiaramente impossibile o chiaramente addirittura fasullo, falso, come fare sollevare il Pentagono o dire stupidaggini di questo tipo, che però attraverso queste virgolette stupidaggini si arriva a creare un convincimento o una, non che la gente sia convinta davvero di far levitare il Pentagono o di come dire, occupare davvero la borsa, anche se poi invece in, come dire, momenti insomma, particolari, adesso parliamo di occupazione, ma i grandi movimenti che ci sono in questo periodo di Occupy Wall Street, Occupy, allora, dicono, come dire, c'è una sorta di, diciamo, rovesciamento. A volte obiettivi di questo tipo sono chiaramente realizzabili, non si può, e tu li fai lo stesso però per aumentare la tua capacità di, diciamo, parlare con della gente o di far, o di, come si dice, bucare i media, cioè di farti, di fare in modo che circolino le notizie su questo, su questa azione che hai fatto, su questo avvenimento, che pongono dei problemi reali, al di là del modo in cui tu li hai. Però a volte questa cosa invece, quando poi il movimento si allarga, la gente è sufficientemente incazzata o un numero sufficiente di persone ha deciso che, come dire, ha aumentato il suo livello di energia psichica, quindi di volontà di fare, eccetera, eccetera, puoi anche perlomeno parzialmente trasformarli in obiettivi. Cioè, Occupy Wall Street ha tenuto occupato uno spazio pubblico di New York, un piccolissimo parco, per vari mesi, poi sono stati sgombrati, però sono stati lì, hanno detto basta, l'economia qui, la crisi, eccetera, avete rotto le scatole. E come hanno usato questi 3 mesi, 2 o 3 mesi di occupazione? Hanno discusso dei problemi, hanno fatto circolare materiale, hanno fatto assemblee, hanno fatto. Questo ha significato, nel caso del movimento americano di quest'anno, parliamo di quest'anno, qui non c'è il nome collettivo, eccetera, però c'è sempre un'azione di questo tipo, come dire, un obiettivo eclatante, apparentemente irraggiungibile, nessuno sa che non è possibile occupare Wall Street, cioè, però dicendo occupiamo Wall Street, occupate Wall Street, occupare Wall Street. Occupy Wall Street si può tradurre in vari modi, occupare, occupate, occupiamo, no, perché sarebbe Let's Occupy Wall Street, ma so, anzi, proviamo a chiedere così. Diciamo, un obiettivo sovradimensionato, fantastico, irraggiungibile, far sollevare il Pentagono, sono cose un po' come diverse, però tutte e due sono, come dire, cose impossibili da fare, insomma, no? Da un punto di vista realistico. Ma se, allora, fino a che i, come dire, movimenti stanno attaccati alle cose che è possibile fare, non riescono spesso a mobilitare tutte le energie che mobilitano invece se proclamano qualche cosa di impossibile, qualcosa di fantastico, qualcosa di, no, quindi, come dire, il carattere irrealistico dell'obiettivo o anche dell'obiettivo o dello strumento che usi, quindi il nome finto, l'invenzione di un movimento che non c'è, il riferimento a cose sballate, assurde, eccetera, eccetera, però è uno strumento per fare delle cose invece ragionevoli, possibili, che però se tu avessi, diciamo, tenuto come fa la politica tradizionale, già no, parliamo delle, no, diciamo, le cose che si possono fare davvero, su, perché non si può, siamo seri, eh? Se fossimo stati seri non avremmo raggiunto la mobilitazione e l'aumento anche di consapevolezza in quelli che partecipavano a queste cose, che invece abbiamo raggiunto facendo azioni di questo tipo, cioè basate su obiettivi e o strumenti, chiamiamoli, come dire, irrealistici, esagerati, falsi, finti, cioè. Questa è una caratteristica, diciamo, è un paradosso se vuoi, ma è una caratteristica del linguaggio, insomma, in qualche modo, perché fa parte della, è il linguaggio che, lavorando su questa impossibilità o su questa, perché, come dire, nel linguaggio, parlando, si possono enunciare delle cose finte, bizzarre, strane, inesistenti, se ne può parlare, cioè il linguaggio le può esprimere. Allora, diciamo, io direi che queste azioni possiamo dire che si basano su due, come dire, presupposti. Uno è la ricchezza del, come linguaggio, certo, quindi la capacità, ma l'altra, su cui spesso non si riflette abbastanza, ed è implicito in quello che ti ho detto prima, è la ricchezza della realtà. In realtà, In realtà, in effetti, anche la realtà, cioè anche le cose che si possono fare spesso sono più di quelle che noi pensiamo di poter fare. Se noi stiamo a dire, ah, questo non si può fare, cioè tutti, come dire, i ben pensanti o anche come dire, i settori più, virgolette, seri dei movimenti, come sono stati in passato, insomma, le ali, chiamiamole più politiche, tradizionali, anche di estrema sinistra, con grandi cose molto molto radicali, però poi, come dire, tutte chiuse dentro una sorta di principio di realtà o di principio che spesso ti limita, no? Invece spesso quando tu ti metti, come dire, quando si innesca un movimento davvero, all'interno di questo movimento poi succedono delle cose che spesso non sono state previste da chi aveva lanciato il movimento. Quindi insomma, diciamo, la realtà si rivela più potente, più ricca, ha maggiori potenzialità, maggiori possibilità di quelle che noi non pensiamo, se invece stiamo attaccati alle cose che all'inizio ci sembrano possibili. Perché? Perché le categorie del possibile e dell'impossibile sono relativamente elastiche. Certo, è molto difficile pensare che questa bustina di occhiali con la forza del mio pensiero si sollevi da sola e vada, questo sappiamo tutti. Però, allora, tra la cosa banale di dire, la prendo io con le mani e la sposto da qua a qua, e la cosa chiaramente impossibile di dire, la sollevo con la forza del pensiero, ci sono un sacco di cose intermedie che uno può fare, per cui, insomma, per esempio, ma perché hai fatto, perché hai concentrato tutta questa gente in questo posto per fare una cosa che chiaramente è una bufala? E vabbè, intanto dovete venire, intanto quelle sono andate in quel posto, quindi intanto, e andando in quel posto hanno parlato, discusso, fatto delle cose, hanno percorso a piedi in macchina, in metropolitana, delle zone della città, hanno come dire, percorso gli spazi, hanno fatto delle cose, un po' come era la psicogeografia, abbiamo visto per i situazionisti, cioè come dire, una cosa di questo tipo. Facciamo altri due, diciamo, esempi, che infatti poi non a caso derivano più o meno entrambi, anche se in maniera molto molto deviata, dalle esperienze di Luther Blissett romane e di Bolognesi. Una, per esempio, è l'operazione MIR, Man in Red, un'operazione fatta a Roma, mi sembra tra il 99 e il 2000, non mi ricordo, tra il 1999 e il 2001, 2003, 2004, non me lo ricordo bene, che è stata, diciamo, lanciata da un piccolo gruppo di, anzi, praticamente da due sole persone che facevano parte del Luther Blissett romano, i quali hanno fondato questa, diciamo, rivista. Man in Red a quell'epoca lì c'era stato il film Man in Black, no? Era una presa in giro, comunque era un riferimento a questa cosa, quindi vuol dire che il campo, diciamo, d'azione di questa gente era chiaramente l'ufologia. Insomma, l'esistenza di alieni, eccetera, eccetera. Ora, gli ufologi in Italia, come in tutto il mondo, ci sono piccoli gruppi di persone convinte che gli UFO esistono davvero, di averli visti, bla, eccetera, eccetera, va bene, e fanno i loro congressi, le loro cose, eccetera, eccetera, eccetera. No? E, allora, questi ragazzi, insomma, ormai non erano ragazzi, insomma, erano, diciamo, romani, tutti e due operanti, uno particolarmente nell'ambito della pubblicità, era gente che aveva studiato scienza della comunicazione a Roma, che era già laureata, e fa, diciamo, di lavoro almeno uno dei due fa questo, fa il, insomma, un advertiser, insomma, uno organizza cose di questo tipo, quindi aveva in mente. Cosa hanno fatto? Hanno fatto questo gruppo che a fondare, insomma, che sono riusciti, non so come hanno trovato i soldi, hanno fatto una rivista chiamata Medico, sono usciti due numeri soli, ma va bene, belli grossi comunque qua. Come si chiamano questi due? Non te lo dico, sono due ragazze, e loro vanno a conservare l'anonimato, loro non hanno messo il loro nome, quindi non te lo... Non, non te lo dico neanche io, se è gente che poi qualcuno conosce per caso, insomma. Anche perché con il loro nome fanno delle altre cose, insomma, quindi io ovviamente. Allora, in certi casi il nome si mette cambiando cose, insomma, io quando ho fatto Luther Blissett ho messo Luther Blissett, traduzione di Antonio Caronia, quindi poi se uno dice capisce, cioè, ok, sei tu che l'hai fatto, hai messo traduzione di un testo che non esiste, che non è mai esistito, e quindi è ovvio che sarai tu che l'hai fatto. Ma loro non l'hanno messa questa cosa perché c'era più questa, allora ai tempi Luther Blissett erano veramente di più, in quel caso erano solo due, ma hanno comunque fatto un'azione in qualche maniera collettiva, perché? Perché hanno deciso di fare una tattica, insomma, che nella politica tradizionale si chiama entrismo, l'entrismo nei movimenti ufologici, diciamo reali, quelli che ci sono davvero, nei gruppi di ufologia. E si sono inventati questa cosa chiamata l'ufologia radicale. Ufologia radicale. L'entrismo è una tattica, prende questo nome, te lo dico storicamente perché c'è una storia politica in questo caso, è una tattica creata dai gruppi trotskisti negli anni 40, quando Trotsky era stato espulso già dall'URSS, eccetera, eccetera, e c'erano dei piccoli gruppi, piccolissimi, in vari partiti comunisti del mondo che stavano dalla parte di Trotsky e non da quella di Stalin, ma chiaramente se questi trotskisti, diciamo, si fossero espressi chiaramente all'epoca, adesso è una cosa diversa, ma insomma, diciamo, negli anni 40, negli anni 30-40, prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo, anche fino agli anni 50-60 poi, con il controllo ferreo che, diciamo, avevano i partiti comunisti ufficiali del proprio partito, la propria cosa, praticamente li avrebbero espulsi subito. Allora, qualcuno diceva facciamo dei gruppi nostri, autonomi, indipendenti, e Trotsky disse no, siamo troppo piccoli, siamo troppo pochi per ora, quindi continuiamo a rimanere all'interno dei partiti comunisti, o se troviamo della gente facciamoli entrare dentro i partiti comunisti, senza dichiararci in maniera esplicita, facciamo un'opera di propaganda coperta, e questa tattica, entrare nei partiti comunisti, si è poi chiamata entrismo. Ed è stata la tattica associata, poi è stata anche criticata molto questa tattica da altri gruppi rivoluzionari, dicevano no, dovevate farvi conoscere, eccetera, eccetera. Diciamo in realtà, vabbè, questi piccoli gruppi trotskisti si dividevano, cioè c'era un personaggio o due pubblico che manteneva il proprio nome fuori del PC e diceva le cose che pensava, però tutti gli altri aderenti a questo gruppo erano, virgolette, clandestini, cioè non dicevano di essere, come dire, trotskisti, apparentemente erano dei comunisti ortodossi, invece erano. Allora, questo per spiegarti il termine entrismo. Questi due, diciamo, ragazzi, questi due signori di Luther Blissett, decidono di ex Luther Blissett, che si era già sciolto nel frattempo, decidono di fare un entrismo nei movimenti ufologici. Inventano un discorso di questo tipo, cioè dicono, sì certo, gli UFO dice esistono, fa tutta una storia, in questo caso sono più o meno ufologi, diciamo, più o meno tradizionali, dicendo sì, gli alieni ci stanno osservando, allora noi vogliamo il contatto con gli alieni, c'è un alien nation nella galassia, nel mondo, che ci sta osservando, però, dicono questi, questa alien nation è una nazione divisa, su che cosa è, come dire, divisa? C'è una lotta di classe anche dentro la Alien Nation, ci sono gli alieni proletari, gli UFO proletari e gli UFO con i capitalisti, i borghesi, e noi siamo dalla parte degli UFO proletari, quindi vogliamo prendere contatto con gli UFO proletari per aiutarli nello sviluppo della loro lotta di classe, perché loro analogamente aiuteranno noi nella cosa. Allora è chiaro, no? Che c'è nessuno, ovviamente, di questi era. Allora, sconcerto fra tutti, perché quando tu fai un'azione del genere, la fai con una certa coerenza, non puoi evitare di far pensare alla gente che tu ci creda davvero. Quindi anche io stesso, quando ho visto il primo numero di questa di rivista, loro non me l'avevano detta la cosa, ovviamente io conosco, sono amico di tutti e due questi qua, però non me l'avevano detta, quindi vedo la rivista, dico che matti, beh, ovviamente la prima cosa che penso, ma poi leggi un articolo, due articoli, quattro articoli, pur conoscendo le due persone, sapendo benissimo che tipi sono, eccetera, anche a me mi ha sfiorato a un certo punto il dubbio, dico, cazzo, ma si sono veramente bevuti il cervello questi, non sono andati, ovviamente non era vero niente, cioè era solo un modo. Però con questa rivista, con il fatto di millantare la nascita di gruppi di ufologi radicali in Italia che non c'erano, erano solo loro due, non c'è mai stato nessun movimento, però loro hanno fatto finta che ci fossero, che c'era questa rivista, per loro la diffondono, eccetera, sono andati ai congressi a un paio di congressi di ufologi, diciamo, reali, e li hanno stravolti, cioè hanno polarizzato tutto il dibattito, perché gli ufologi li hanno presi sul serio e si sono messi a dibattere anche loro, ma non è vero, ma non c'è la lotta di classe, ma cosa dite, ma il proletariato no, ma non so. E alcuni però dice no, perché le società stellari, la società stellare è una società armonica, non c'è la lotta di classe, prende sul serio, cioè hanno cominciato. Ora, tutto questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che per alcuni mesi, e c'è un movimento che non c'entra nulla con tutte le cose, che il movimento degli ufologi, fatto di persone a volte padri di famiglia, rispettabili, eccetera, si sia messo a discutere della lotta di classe, davvero, pure gente che non l'avrebbe mai fatto, capisci che tipo di obiettivo si riesce a raggiungere quando fai una cosa di questo tipo, no? E questi due di Mir, poi siccome sapevano la storia, eccetera, eccetera, loro nel primo numero di Mir scrivono le persone a cui si erano ispirati, insomma, e praticamente ci mettono anche un'ambigotopia, cioè il gruppo in cui io militai, in cui ho fatto il mio apprendistato, come dire, politico nuovo, cioè finita la mia fase politica, virgolette, seria, insomma, io sono stato 9 anni trotschista, quindi di piccoli gruppi, insomma, però ero, non l'ho mai fatto in quella fase lì, robe di questo tipo. Però nel 77, uscito alla fine del 77 da questa esperienza, un po' anche stanco, stravolto, eccetera, eccetera, insomma, sono entrato dentro un gruppo che aveva un'ambigotopia e che era un gruppo che si occupava di fantascienza da un punto di vista però appunto, diciamo, radicale, cioè con una politica di sinistra, e una bigotopia alla fine degli anni, insomma, 70 fu una piccola esperienza, però insomma ebbe nel piccolo mondo della fantascienza ebbe un grande risalto, e poi facemmo delle cose anche noi di questo tipo, cioè fatte in questo modo qua, la cui più importante ovviamente fu quella di esordio, cioè facemmo nel settembre del 78 organizzammo la prima invasione dei marziani a Milano, che era semplicemente un corteo normale di quelli come si facevano, soltanto vestiti da marziani, quindi mascherati con delle maschere, delle cose eccetera. Alcuni di noi si inventarono una lingua che io ho poi usato in diversi, diciamo, interventi, eccetera, una lingua fatta di suoni gutturali, eccetera, eccetera, e quando era il caso, ovviamente in brevi, però ha un grande effetto. Poi insomma l'ho fatta per esempio l'anno dopo, alla fine del 79, credo, in un convegno di intellettuali di sinistra serissimi, a Piacenza, si chiamava Il lavoro mentale, tutto fa con gente come Balestrini, Maria Corti, gente della cultura italiana. Siamo andati noi in tre, siamo andati di un'ambigotopia, io sono stato presentato come un alieno di Vega 4 che aveva assunto temporaneamente sembianze umane per non spaventare il pubblico, e ho fatto questo breve intervento che era un attacco al PC, alla politica culturale, eccetera, eccetera, del PC, e parlando per 2 minuti e mezzo, 3, con questa lingua, ovviamente, cioè, c'erano, insomma, io mi ricordo che stavo lì sul palco e ho sentito distintamente, vicino a me c'era l'assessore alla cultura della provincia, credo, di Piacenza, che ha inventato una cosa che chiede a credo ci fosse vicino Leonetti, Francesco Leonetti, e chiede: ma questi chi sono? Chi è questo? Ma chi sono questi? Penso, credo sia un gruppo, sì, mi sento parlare, un gruppo milanese di gente che si occupa di fantascienza, però non pensavo che facessero questa cosa. Insomma, tutti ovviamente sconvolti, stravolti, però hanno parlato di noi, hanno fatto cioè tu hai introdotto una rottura del codice comunicativo del serio intervento dell'intellettuale che parla, dice le cose, cose che poi ognuno di noi, anch'io, ho poi continuato a fare nella mia vita, non è che faccio solo, ho fatto solo le cacciate, ho fatto anche le altre cose, però in quel momento lì bisognava fare questo, e lì c'eravamo praticamente i tre gruppi, insomma le tre persone che fecero il fumo, da primo noi, poi c'era Franco Berardi, Biffo, che fece anche lui una cosa di questo tipo. Noi facemmo l'intervento in appunto vegano, vegano non dal punto di vista italiano, proprio perché era Vega 4, avevo deciso che era Vega, insomma, io poi ho quasi sempre avuto Vega, adesso negli ultimi anni ho cambiato un po', ma insomma. E Biffo invece fece una cosa, chiese la parola fuori, no, dice devo parlare, bisogna di una cosa importantissima di successo, dice. Era il 79, quindi figurati. Le Brigate Rosse hanno rapito Gianni Agnelli, dice, è arrivata adesso la notizia, adesso vi do, e c'aveva in mano un registratorino portatile analogico dell'epoca, non erano ancora digitali, dice, adesso vi faccio sentire il comunicato, schiaccia il registratore, Donna Summer, chi diavolo era, comincia a fare, sono sempre a questo, famo lì. Poi il giorno dopo finale, il terzo elemento di tubo erano gli Schiantos, un gruppo musicale, cioè c'erano gli Schiantos, anche un gruppo musicale, dei quali non intervennero, organizzammo, noi c'era in tre, gli Schiantos erano tre o quattro, Biffo, nella riunione conclusiva di questo convegno, che noi volevamo non proprio boicottare, ma come dire, mostrare quanto fosse uguale alla cultura che loro volevano, cioè loro si presentavano come dei contestatori, dicendo no, noi siamo la cultura di sinistra, eccetera, e in realtà facevano le stesse cose che fa la cultura normale. Noi volevamo dire, guardate, per fare questo cosa fai? Diciamo, lo strumento migliore che abbiamo potuto usare era quello di introdurre in qualche modo dei piccoli eventi che fossero fuori dal loro binario, esattamente per mostrare che, come dire, il nostro era, non che fosse un modello, però noi stiamo facendo delle cose che sono fuori dal seminato, che possono essere fatti, se l'avessimo fatto tutti insieme, invece che voi continuate a chiacchierare nelle vostre, ma se tutta la città di Piacenza fosse stata invasa da serissimi intellettuali che parlavano marziano o da serie persone che diciamo raccontavano falsi comunicati delle Brigate Rosse, e quindi l'ultimo giorno ci mettiamo insieme, il convegno si svolgeva in teatrino all'italiana, quindi no, quelli con i palchi sopra, insomma, con le cose circolari, insomma, con il palco circolare in mezzo, poi con i palchi tutti intorno nei vari ordini, no? Noi andavamo su clandestinamente, diciamo, gli Schiantos, Biffo e noi dell'Ambigotopia, con alcuni, sufficientemente armati di proiettili, appunto all'uopo, procuratici, e mentre c'era la sessione conclusiva e tutti tronfi, queste persone, cominciamo a bersagliare ovviamente di verdura, e quindi bersagliati di zucchine, pomodori, altre cose, ma gente, roba che faceva male, insomma, non ne abbiamo tirati come delle bombe, però insomma, ovviamente anche questo qui, sì, ma chi sono, vasto sempre quelli, ovviamente, certo, faceva, quindi abbiamo fatto la, però erano tutte azioni che rompevano diciamo, la ritualità, no, di una cosa collettiva. Questo per spiegarti, poi ne abbiamo fatte tante altre, io ne ho fatte in particolare in quegli anni un casino, insomma, se vai a vedere sul libro ci sono anche le documentazioni fotografiche in cui un po' imbarazzante, insomma, anche andarsi là con le braccia e i capelli lunghi fin qua, quindi comunque mi si riconosce, insomma. Sì. Tutto sul libro. Sì, sì, sì. Mi si riconosce benissimo, insomma. La faccia è sempre quella, un po' più giovane, ovviamente, avevo poco più di 30 anni. Vestito da un proletario, sempre. Sì, vestiti normali, però avevo capito di no, prima abbiamo fatto una roba, mi sono fatto portare a braccia fuori, mi hanno portato a braccia fuori dalla cosa, abbiamo fatto delle beffe in radio, mi hanno fatto di tutti i colori nel giro di pochi anni, però facevamo anche cose serie, cioè era un mix di serie, per dire, più tradizionali, insomma, no? Era un mix di attività culturale tradizionale e però di momenti di rottura, come dire, fortissimi. E allora questi di Mir, per tornare a Mir, Man in Red, citano un'omegotopia tra i loro padri, tra i loro predecessori. Loro erano più giovani di me, quindi non avevano fatto un'omegotopia, erano troppo piccoli all'epoca, nel 78, 79, 80. Noi eravamo già nel 99, quindi 99, 2000, 2001. Però citano questa cosa. Allora io dico, li chiamo, gli dico, bello, bella roba che hai combinato, bravi, cos'è? Dico, ma perché? Grazie anche per aver citato un'omegotopia. E allora loro mi dicono, questo qua, che insomma io fra i due sono più amico con uno di questi due di Miro, più però li conosco tutti e due. E lui mi dice, anzi sì, volevamo chiederti per il numero 2 se ci facevi una storia dell'omegotopia. E così gli ho fatto una storia seria, ovviamente, gli ho dato un articolo che è uscita, è stata la prima rievocazione storica di questa esperienza dell'omegotopia, che poi è un'esperienza che è durata tra la fine del 77 e il 1982, quando abbiamo fatto un grande convegno, stavolta serio, che però ci è costato una tale quantità di quattrini che praticamente siamo falliti, come noi eravamo una cooperativa, addirittura neanche un'associazione culturale. Allora, sì, perché eravamo una libreria, ma che ci eravamo costituiti come... Ma abbiamo fatto un po' di rumore, insomma, nella... Infatti diversi libri di quel periodo citano più o meno l'omegotopia come una delle cose, diciamo, del movimento del 77. In realtà siamo nati alla fine del 77, insomma è una specie di coda, è stata una coda del movimento del 77. Allora, questa per esempio allora è l'esperienza del Mir e ti ho attaccato dietro un'omegotopia. Un'altra esperienza interessante invece che si è fatta sempre in quegli anni, quindi fine anni 90, primissimi anni zero, a Bologna, in questo caso, invece è stata l'associazione AAA, Associazione Astronauti Autonomi. Questi erano ancora più fuori di testa dei romani, non erano propriamente Luther Blissett, erano stati nell'orbita di Luther Blissett, ma frequentavano un centro sociale, insomma un locale bolognese che però fu molto importante per la cultura di quegli anni della 90, che era il Link, si chiamava Link. Era una specie di occupazione, poi in realtà, diciamo, sanata, cioè hanno poi trovato un accordo con il comune di Bologna, però loro erano partiti occupati. Era un ex dopo. Erano dei locali delle ferrovie, credo, abbandonati, o comunque era dietro la stazione di Bologna, dove fare un po' di cammino. Era molto bello, perché si erano costruiti, è stato un posto importantissimo in cui è maturata molta della cultura alternativa di quegli anni lì, negli anni 90, insomma, no? A Bologna. La cosa più bella era il banco di Mescita, dove davano da bere, no? Perché veramente c'era musica, eccetera, c'erano musica, varie iniziative, insomma, come un centro sociale più o meno, con meno insistenza sull'aspetto politico, anche a volte anche i centri sociali, anche oggi, insomma, no, hanno un atteggiamento un po', virgolette, incessato dal punto di vista politico, cioè sempre più. Invece lì no, era molto più. Perché erano anni in cui effettivamente e questo banco era stato fatto con del materiale di riciclo, vecchi pezzi di vecchi banconi di legno, eccetera, cose metalliche però, ed era stato costruito come AS, no? Era bellissimo perché c'era, tu entravi, era diciamo, era poi l'immaginario, era l'epoca del cyberpunk, cioè del, quindi, come dire, questo immaginario del cyberpunk che mescolava legno e metallo, quindi cose, diciamo, antiche o comunque tradizionali, vecchie, e cose apparentemente futuristiche, eccetera, però c'era stato del lavoro per riuscire a farlo, cioè non è che hanno preso quattro cose, erano passate insieme, c'era del design dietro, insomma, il design a volte anche più interessante di quello ufficiale, insomma. Vabbè, allora, e poi questo link aveva, dentro questo link c'erano, come tante altre cose, c'erano anche di Infoshop, era una pseudolibreria, una libreria con dei materiali così, alcune delle, un paio di persone che lavoravano in questo Infoshop si inventarono questi AAA. Che cos'era AAA? Era, attenzione anche lì, insomma, era la parodia per certi versi di un discorso politico applicato all'astronautica, e diceva: diventa anche tu astronauta. Basta con la, anche lì c'era un discorso, come dire, politico, ma buffo, campato per aria, insomma. Dice: basta con la centralizzazione monopolistica della NASA. Perché devono fare, perché le astronavi devono fare solo loro? Facciamoci ognuno la propria piccola astronave nel nostro giardino, nel cortile di casa, eccetera. Anzi, addirittura teorizzarono, cioè, dice, impariamo a navigare nello spazio senza astronavi. Quindi facciamo, anche lì, quindi levitazione, roba di questo tipo. Fecero una serie di piccoli, come dire, opuscoletti autoprodotti, insomma, si sarebbe detto ciclostilati negli anni prima, adesso cominciava già a diffondersi l'informatica, quindi si potevano fare con le stampanti, con le prime stampanti dei cose, e Associazione Astronauti Autonomi. E poi ci fu un libro, dopo un anno o due, c'era un libro con Castelvecchi, con l'editore Castelvecchi di Roma, radunando tutte quelle loro pazze cose, insomma. Era un discorso simile a quello del Miri, insomma, no? Veniva introdotto dentro un discorso abbastanza serio, serio e ovviamente dominato, cioè solo una partita di quattrini terribile per l'astronave, e questi invece si inventarono l'idea che fosse possibile costruire astronavi anche con pochi soldi, con materiali di riciclo, quindi una sorta di astronavigazione, tra virgolette, democratica, cioè aperta a tutti e non chiusa dentro la cosa di questo tipo. E però vennero fatte anche lì, loro per esempio, indicevano delle, dice, dimostrazione pubblica di volo spaziale, ovviamente. Ed era semplicemente un pretesto per chiamare della gente, fare delle cose, è ovvio che non c'era nessun volo spaziale o nessuna cosa, ma anche lì, come dire, il meccanismo era sempre quello, attraverso l'evocazione di un immaginario totalmente, improbabile, o delle cose chiaramente impossibili, però sì, facevano circolare dentro alcuni ambienti, mi sembra che loro tentarono, però non riuscirono come i MIR. I MIR per quasi un anno monopolizzarono il dibattito interno delle associazioni ufologiche tradizionali. Gli ufologi tradizionali non facevano altro che discutere di questi due disgraziati che in due da soli avevano praticamente paralizzato. Ora tu dici, non ci vuole tanto, ed è una cosa stupida paralizzare gli ufologi. E però anche lì arrivarono, i giornali arrivarono, ne parlarono, cioè c'era sempre il fatto, cioè c'è sempre una mescolanza di effetto mediatico e contemporaneamente anche piccolo, anche poco, ma c'è un effetto sulle persone con cui entri direttamente in contatto, insomma, perché intanto stimoli la loro immaginazione, cioè dimostri che con la forza col linguaggio puoi immaginare delle cose. E il metodo è analogo a quello che si può usare, si potrebbe usare per una progettazione sociale reale, cioè invece ovviamente di fare queste robe qua, tante cose si potrebbero fare, molte delle iniziative o delle cose che sono state in realtà realmente realizzate vennero da cose di questo tipo, pensiamo all'educazione steineriana, erano tutte cose di persone visionarie, trattate come dei coglioni all'epoca, dai propri contemporanei, che poi invece hanno fondato le cose, non tutti, certo, su uno che era, ce n'erano 10 o 20 o 30 dei progetti che invece erano totalmente campati per aria. Ma se tu lo fai, come dire, facendo finta di essere convinto, ma diciamo in realtà senza crederci per nulla, insomma, ma come dire, se lo fai in maniera conseguente, se lo fai in maniera, insomma, degli effetti si possono avere, poi certo non è che non è mai dato nulla una volta per tutte, insomma. Anche noi abbiamo per un anno e due, anche noi dell'ambigotopia per un anno e due abbiamo polarizzato il dibattito del mondo della fantascienza, che è un mondo ridicolo, certo, fatto di poche centinaia di appassionati in Italia, per dire. In America già era diverso, in America le convention di fantascienza sono sempre una cosa minore, ma sempre un gruppo, però ci sono migliaia e migliaia di persone. In America però non c'è stata mai una roba simile a un'ambigotopia. E comunque anche noi, diciamo, dell'ambigotopia, siamo stati scambiati per gente che voleva fare della fantascienza di sinistra. Non ce n'è mai fregato niente a noi di fare la fantascienza di sinistra. Sappiamo benissimo che la fantascienza non è né di sinistra né di destra. Però dicendo anche delle cose esagerate o false o finte, esiste una fantascienza di sinistra. Abbiamo, oppure, un'altra cosa che a volte dicevamo, la fantascienza è di sinistra, il fantasy di destra. Che è chiaro che di per sé è una stupidaggine, come dire, riuscivamo a smuovere le acque, riuscivamo a fare in modo di, anche noi poi abbiamo praticamente, dopo questa roba che ti ho detto dell'invasione dei marziani, nell'80 siamo andati alla convention europea che si teneva a Stresa, e anche lì abbiamo praticamente paralizzato quasi. Siamo riusciti a non farli discutere di quello che dovevano discutere loro, ma delle cose che dovevamo discutere noi. Quindi appunto diciamo, il rapporto tra fantasia, fantascienza e movimenti politici, movimenti sociali di opposizione, ovviamente tutto fatto da serissime persone, alcuni di destra, alcuni fascisti, alcuni eccetera. Io sono andato lì, per esempio in quel caso lì, a come dire, boicottare le conferenze di quelli di quelli di destra, ne abbiamo boicottata una, con una cosa semplicissima, eravamo in tre o quattro, in quello diciamo che eravamo una decina, anche 15 persone, ci sono bastate 15 persone per paralizzare una roba di 200-300, insomma, evidentemente, perché se tu ti muovi bene. In quel caso, per esempio, lì c'era un fascista che si chiamava Alex Voglino, che è giovane, più giovane di noi, che era un piccolo astro nascente della nuova critica di destra, perché c'era molta gente di destra, e però loro sostenevano che no, la fantascienza non c'entra niente con la politica, e insomma, ma come non c'entra niente, voi siete di destra, non c'entra niente con la politica, diteci cosa, cioè, no, ma perché voi volete mettere tutto in politica, dico no, la politica è importante. Allora questi dice che tu sei un fascista, quindi devi essere, insomma, contestato. E andavamo lì, una cosa molto semplice, eravamo in tre persone, credo, io, la mia compagna di allora e un altro giovanotto più giovane, semplicemente ci truccammo, ci facemmo truccare il viso in modo molto, diciamo, esagerato, insomma, occhiaie nere, cose, proprio come fossimo, non in modo clown, però in modo dark, come dire, no? Adesso all'epoca non si usava il termine dark, quindi arrivavamo lì, questi tre dark, e semplicemente ci limitammo a passeggiare avanti e indietro in totale silenzio nella sala delle conferenze. Questo comincia la sua cosa, e dopodiché tutti quei pochi che c'erano a sentire smettevano di ascoltare lui, guardavano noi, chi sono questi pazzi, ma che fanno? Guardavano, e lui dopo un po' smette di fare la sua conferenza, e siccome mi conosceva, conosceva noi, sapeva chi eravamo, insomma, e quindi viene da noi e cerca di provocarci a un dibattito. Ah, ma allora no, siete qua, allora discutiamo, va bene, non lo faccio conferenza, discutiamo, parliamo, e noi non l'abbiamo filato neanche di striscio, e abbiamo continuato a fare questa cosa, quindi c'era questa cosa buffa di questo, che ogni tanto ci chiedeva, ma cosa volete, ma diteci, ma e noi zitti, in silenzio, avanti, come delle presenze mute, cioè, una cosa stupida, molto semplice, ma basta questo dopodiché poi ci è andato il, poi abbiamo fatto una mozione, poi ci è andato il premio, alla fine abbiamo avuto il terzo premio, sono questi premi buffi, ridicoli, eccetera, eccetera, della il terzo premio si è andato per la nostra rivista, per le riviste che si chiamava, appunto, la rivista si chiamava Una Melotopia. Noi siamo saliti sul palco in 3 o 4, abbiamo preso l'attestato del premio, abbiamo fatto un bel aeroplanino di carta e l'abbiamo lanciato tra il pubblico, mentre gli altri della Melotopia, tutti disposti in giro, bersagliavano il pubblico con rotoli di carta igienica così grossi, con su scritto, no? Quindi non facevano male, con tutti degli slogan, eccetera, eccetera. Va bene, sono sputanato a sufficienza, ormai ho raccontato, sì, allora capirai. Comunque è tutto scritto, questo sta ormai nelle storie dell'ambigua utopia scritta da me o scritta da altri. Sono episodi molto piccoli, dico, da dire, marginali. Insomma, questo nella comunicazione guerriglia non c'è, perché ovviamente erano cose che non erano così direttamente legate al movimento, insomma. Allora, passano degli anni, passano gli anni, insomma, 90, eccetera, a un certo punto l'evento che a un certo punto rivitalizza, insomma, l'evento, ci sono vari eventi, evidentemente, insomma, l'evento, come dire, fondamentale, chiaramente è la nascita del cosiddetto movimento No Global, dopo 15 anni non proprio di assenza di movimenti, ma insomma di relativa stanchezza a livello anche internazionale, insomma, dopo la grande fiammata, però durata in alcuni paesi per tutti gli anni 70, insomma, diciamo, l'Italia è l'emblema di questa cosa, perché c'ha 68-77, insomma, dal 68 al 77 e qualche anno dopo ancora, insomma, diciamo, si può prendere come data simbolica di sconfitta o di battute di arresto dei movimenti, i grandi licenziamenti alla Fiat del 1980, primavera, fra l'80 e l'81. C'è stata un'occupazione della Fiat nel 79, una pseudo-occupazione, insomma, comunque c'è un conflitto molto aspro, non direttamente gestito dal sindacato, ma diciamo da una sorta di auto-organizzazione degli operai, eccetera, quando alla fine poi il sindacato chiaramente firma un accordo, un compromesso con la Fiat, quindi quando questa lotta comincia a scemare, la Fiat ne approfitta, mi sembra nell'80 licenzia 300 persone che sono esattamente quelli che hanno, diciamo, quelli che sono emersi durante le lotte, insomma i leader naturali delle lotte, molti sono militanti sindacali, alcuni no, il sindacato non muove un dito perché non sono dei suoi, insomma è gente che ha soltanto la tessera, ma è gente che gli ha solo rotto le scatole anche ai sindacati, gente che ha sempre rivendicato una linea più, diciamo, radicale di quella ufficiale sindacale, quindi li lascia licenziare praticamente. Poi c'è una finta marcia, una reale marcia, cioè gli impiegati, diciamo, l'ala di destra, per così dire, o quelli non di sinistra, o quelli non contestatori, insomma, all'interno della Fiat, fanno i cosiddetti quadri, insomma, gli impiegati superiori, eccetera, fanno una marcia, mettono insieme, sì e no, 10.000 persone, ma che sono tante comunque, loro la spacciano come la marcia dei 40.000, è stata una verità, cioè, guarda, ci siamo anche noi, non ci sono solo gli operai che rompono l'anima. Bene, dopo questo, dopo pochi mesi, la Fiat annuncia una grande ristrutturazione e procede, comincia la politica che adesso è stata perfezionata con la suggestione Marchionne, ma comincia nei primi anni, fra l'80 e l'81, che comincia a licenziare diverse migliaia di persone a Mirafiori e a Lengotto, chiude Lengotto poi credo definitivamente come fabbrica, lo fa diventare un'altra cosa, eccetera. Quello, si può prendere quello come... come la sanzione che il grande ciclo di lotte degli anni 60 e 70, cominciato in realtà all'inizio degli anni 60, dal 62-63, poi c'è il 68, poi tutti gli anni 70, insomma, ragazzi, 20 anni, insomma, non si porta a casa nulla di sostanziale e definitivo, si cambiano tante cose, ma insomma è ovvio che le cose, e quindi insomma, quello è, diciamo, quello si può dire simbolicamente è l'inizio è la sanzione di una sconfitta. Nel frattempo il capitalismo si sta riorganizzando nel modo in cui abbiamo visto adesso, quindi insomma con questa svolta cosiddetta post-fordista, insomma l'economia linguistica, l'economia dell'attenzione, eccetera, cambia il processo di valorizzazione complessivo del capitale, è una ristrutturazione di portata storica, evidentemente, in cui le lotte operaie degli anni 60 e 70 hanno avuto, diciamo, un ruolo. Molti, diciamo, storici, alcuni storici sostengono che sono state le lotte operaie, come dire, lo stimolo, che hanno fornito lo stimolo al capitale per riorganizzarsi nel modo in cui si è organizzato. Quindi quasi sempre si può dire che la riorganizzazione del capitale è una risposta a delle esigenze, a volte anche a delle lotte che la classe operaia, insomma, la classe operaia, comunque i lavoratori, mettono in atto. Non c'è stata una vera saldatura tra il proletariato tradizionale e il nuovo proletariato giovanile, di cui gli studenti sono soltanto una componente, non c'è stata, evidentemente, non per una serie di motivi, anche probabilmente per degli errori nostri, cioè di quelli che hanno fatto quelle lotte in quegli anni, e per, ovviamente però anche per una, sicuramente per una politica, diciamo, rinunciataria e miope del sindacato tradizionale, che non voleva impegnarsi con noi su una contestazione troppo, diciamo, radicale, ma voleva continuare a mantenere un ruolo più cauto di contratto, no, siamo sempre qua, poi contrattiamo, va bene. Nel frattempo si sviluppa il capitalismo internazionale, eccetera, si sviluppa il fenomeno detto della globalizzazione, insomma, in qualche modo, e poi nel 1999 a Seattle, per la prima volta, cioè riprende un movimento mondiale che da allora adesso siamo in una fase bassa, insomma, però per i primi 5-6 anni degli anni zero, diciamo dal 1999 al 2004-2005, ha tenuto banco, cioè nel 2003 il New York Times ha scritto che il movimento No Global era la seconda grande superpotenza mondiale, dopo gli USA. Anche lì non abbiamo, ovviamente, quelli sono fatti ancora più, diciamo, recenti, non abbiamo risolto nulla, non abbiamo. E, diciamo, comunque rinasce un movimento diverso, evidentemente, ma simile per certi versi a quelli degli anni 60, che si riallaccia più, anche se non in forma, cioè tenuto conto delle totali e complete novità, in qualche maniera si riallaccia a quelli degli anni, diciamo, 60, quindi nasce questo nuovo movimento che prende il nome di Movimento di Seattle o Movimento No Global, Movimento Anti-Global, alcuni poi dicono no, non siamo contro la globalizzazione, siamo per una nuova globalizzazione, quindi lo chiamano New Global, ha avuto vari nomi questo movimento, che però dura per molti anni, poi a un certo punto quando c'è, dura, insomma, in realtà quando questo movimento è in grande sviluppo mondialmente, in tutto il mondo, cioè quindi non solo nell'Europa, negli Stati Uniti, nel terzo mondo, più o meno, però c'è il settembre 2001, c'è l'attentato alle Torri Gemelle, questo scatena, ovviamente tutti devono confrontarsi con cosa succede, cosa facciamo, eccetera eccetera. Il movimento ha, giustamente, che l'unica cosa che poteva fare davvero è, nel momento in cui Bush padre aveva già fatto la prima guerra del Golfo, aveva avuto negli anni 90 un'opposizione, ma fino a un certo punto. Quando Bush scatena la seconda, Bush figlio in questo caso, scatena la seconda guerra del Golfo e invade quindi l'Iraq, giustamente tutto il movimento mondiale, diciamo, si schiera e fa una battaglia contro la guerra per cercare di fermare la guerra in Iraq. Ha successo il movimento? No, cioè riesce a raggiungere questo obiettivo? No, la guerra non viene fermata. Quindi è evidente che, però, nel 2003-2004 si fanno delle manifestazioni che sono le più grandi mai fatte in tutta la storia dell'umanità, insomma, non è mai successo che milioni e milioni di persone vanno in piazza contemporaneamente in tutte le capitali del mondo, da Washington a Londra, a Parigi, a Berlino, a Roma, eccetera, eccetera. Insomma, no? Però, nonostante, e lì allora il New York Times scrive, il movimento No Global è la seconda, veramente l'unica, voleva dire che è l'unica vera alternativa che si è manifestata alla politica degli Stati Uniti, cioè è la seconda superpotenza mondiale. Però non ci è servito essere la seconda superpotenza mondiale, ovviamente, perché gli Stati Uniti hanno fatto la guerra lo stesso. E quindi questo ha poi portato una battuta d'arresto di questo, come dire, movimento. Però questo movimento, diciamo, nei pochi anni, diciamo, dal 1999 al 2005, in cui è stato visibile, attivo, ha comunque creato una serie di sconvolgimenti. Uno degli attori italiani di questo movimento è un giovanotto, adesso è un signore, in realtà si chiama Alex Foti, il quale pochi anni fa, nel 2009 ha pubblicato questo libro, Anarchy in the Europe, che è la ricostruzione più, insomma, più, forse la più completa in Italia di questi movimenti, partendo da un punto di vista molto particolare che adesso ti dico. Qui c'è una dedica dell'autore a me, ma va bene, che finisce con uno dei loro slogan, Neuropa insorgente. Neuropa vuol dire sia nuova Europa, New Europe, sia Europa neurale, Europa psichica in qualche modo. Insomma, questo già ti fa capire che tipo di movimento sia questo, diverso da tutti, come dire, i movimenti del passato. Una componente o addirittura un punto di nascita, un momento da cui nascono questi movimenti qua, è quello dei movimenti, diciamo, precari, del precariato. Il tentativo di organizzare in qualche modo o di dare voce alla nuova struttura dei lavoratori nel mondo sviluppato, insomma, nel mondo, poi in tutto il mondo ormai, insomma, tenendo conto sempre dello sfondo che è quello della globalizzazione, quindi lo sviluppo capitalistico non avviene più singolarmente paese per paese, avviene a livello mondiale, è in grado di fare circolare diciamo, i capitali, quindi, diciamo, il denaro e quindi le persone anche a seguito di questi, diciamo, capitali, però naturalmente le persone sono, mentre la circolazione del diciamo, denaro, delle merci viene non solo tollerata ma anzi incoraggiata, la circolazione delle persone, invece, siccome sono persone, viene ostacolata da un certo punto di vista addirittura. E questo è il grosso problema dei, come dire, migranti. Ma il problema della forza lavoro, il problema dei lavoratori è che fra le tante, insomma, una delle componenti della ristrutturazione capitalistica degli anni 80-90, insomma, è stata quella della trasformazione economica e quindi anche giuridica dei rapporti di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quindi l'assunzione stabile da parte sia delle grandi imprese private, sia dello Stato per la propria burocrazia, non scompare del tutto, ma viene fortemente ridimensionato. E viene fuori invece, insomma, diciamo, si richiede a gran voce una cosiddetta flessibilità della forza lavoro, no, vogliamo della forza lavoro flessibile, quindi non assumiamo più i lavoratori come li avremmo assunti fino a ieri, giovani, a tempo indeterminato, va bene, ti assumo, ti do il posto di lavoro, no, ti assumo a termine, e con una tendenza che ormai è sempre più chiara addirittura a ridurre sempre di più il periodo di lavoro in cui l'assunto. All'inizio venivano fatti contratti anche di 2 anni, 3 anni, poi contratti di 1 anno, poi contratti di 6 mesi, poi contratti di 6 mesi, a volte adesso sono anche contratti di 1 mese, se uno da 1 mese ti diamo torto, vai via. Che sono contratti, che è un tipo di lavoro questo che è qui. Qui è l'intervento dello Stato, il quadro come dire, giuridico, viene reso per le aziende conveniente, cioè un lavoratore precario, quindi questo è un grandissimo movimento di precarizzazione del lavoro, precarizzazione. Il lavoro viene reso instabile, precario, non viene assunto più una volta e grosso modo poi funziona per tutta la vita, a meno che tu non fai delle cose gravissime, tipo saboti la fabbrica, metti una bomba sotto la cosa, ammazzi o aggredisci il datore di lavoro, in questo caso ovviamente vieni comunque licenziato anche se hai il contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tutti gli altri casi le lotte degli anni 70 avevano costruito un minimo di garanzie per i lavoratori stabili, tra cui quella più importante è in Italia l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che dice non si può licenziare un lavoratore senza una giusta causa, non dice non si può licenziare, non si può licenziare senza una giusta causa. Naturalmente uno può sempre discutere, il datore di lavoro può sempre dire no, ma c'è una giusta causa, però il fatto che ci sia un articolo di questo tipo consente al lavoratore eventualmente licenziato di impugnare il licenziamento, ricorrere a un giudice del lavoro con una procedura anche abbastanza di urgenza, quindi senza passare attraverso troppe lungaggini, e spesso il giudice del lavoro annulla il licenziamento e impone alla fabbrica di riassumere il licenziato. Allora, intanto naturalmente questa cosa, lo statuto dei lavoratori creato in Italia, legge italiana votata mi sembra nel 1972-73, non mi ricordo, quindi nei primi anni 70, ovviamente è un effetto delle lotte grandi che stanno facendo i lavoratori all'epoca, quindi voglio più garanzie, eccetera. Certamente già allora però i capitalisti si garantiscono, lo statuto dei lavoratori non vale nelle fabbriche, mi sembra che abbiano, nelle fabbriche, in qualsiasi azienda, che abbia sino a 15 dipendenti. Quindi se è un'azienda piccola, cioè meno di 15 dipendenti, ovviamente la libertà di licenziamento c'è sempre. Ma in quelle più grosse, non che non c'è più libertà di licenziamento, è una stupidaggine, si può licenziare, però diciamo obiettivamente la facoltà di licenziare da parte del capitalista è fortemente limitata, è abbastanza limitata, questo è vero. Va bene, la precarizzazione cambia tutta questa cosa, il lavoratore precario costa di meno all'azienda, costa di più a se stesso perché non ha tutte quelle garanzie previdenziali, quei versamenti per esempio per avere la pensione eccetera eccetera, per cui si deve sbattere, deve spendere più soldi per procurarsi l'assistenza medica, non quella di base normale ma per esempio quella medica particolare, se ha bisogno di cure particolari, o quella assicurativa per procurarsi una pensione nel momento in cui voglia smettere di lavorare, e soprattutto consente alla fabbrica di, dico sempre fabbrica, all'azienda, perché possono anche essere non fabbriche, spesso sono aziende terziarie, sono. Consente al datore di lavoro, diciamo, di genere, di assumere e licenziare a seconda della dinamica congiunturale della domanda. Se in un periodo ha bisogno di produrre di più, può assumere più gente per il periodo strettamente necessario per farli lavorare e produrre la cosa. Quando non ha più quella grande domanda, li può comunque licenziare perché ha dei contratti che durano meno di un anno, 6 mesi, quel diavolo che sia. Allora, naturalmente, come sapete, ci sono i sindacati per organizzare questi. I sindacati tradizionali sono, a parte la loro linea politica, a parte la loro concezione sempre un po', insomma, diciamo, a volte eccessivamente conciliatrice verso i datori di lavoro, ma proprio non hanno la struttura organizzativa tale per, diciamo, per riuscire ad organizzare, a dare un di rilievo e a fornire una difesa a questi lavoratori. I lavoratori precari sono, quindi non a tutte queste cose che abbiamo detto prima, si aggiunge il fatto che i lavoratori precari sono privi di difesa sindacale. Non hanno uno strumento sindacale che li tuteli, nessun sindacato si occupa realmente di loro. I sindacati rimangono e continuano a essere interessati soltanto alla forza lavoro, cioè alla manodopera, assunta stabilmente, cioè con dei contratti a tempo, diciamo, indeterminato. Non sono capaci i sindacati tradizionali. E allora che cosa nasce? Comincia a nascere alla fine degli anni 90 un movimento. All'inizio sono piccoli gruppi di lavoratori precari che dice no, bisogna che ci organizziamo per conto nostro, perché il sindacato non ci dà una copertura. Lo strumento di questa cosa è, nasce ovviamente in Italia, ma poi si espande in tutta Europa, a poco a poco, è un primo maggio alternativo, giocando, May Day. Giocando sull'equivoco, sul doppio significato di May Day in inglese. May Day vuol dire sia il primo giorno di maggio ed è la festa tradizionale dei lavoratori, ma May Day vuol dire anche aiuto, soccorso. È il messaggio che si mandano le navi, per esempio, quando sono. Così, a Milano dapprima, poi in altre città italiane, cominci a vedere questa cosa. Primo maggio è la festa dei lavoratori, tradizionalmente i sindacati la celebrano come? Allora, io ho visto i primi maggi degli anni 70 ed erano si facevano dei cortei quei giorni lì con i sindacati molto forti, molto, molto partecipati, con tanti lavoratori, ma poco a poco il sindacato, siccome noi diciamo minoranze rivoluzionarie degli anni 70 li contestavamo dall'interno, andavamo nei sindacati, prendevamo spesso noi la testa del corteo, quindi, come dire, combattevamo, ci disputavamo con le direzioni tradizionali dei sindacati, diciamo l'egemonia, allora loro a poco a poco cosa hanno fatto? Non hanno più fatto cortei. Quindi il primo maggio sindacale ufficiale si è ridotto, come è stato sempre di più, a una commemorazione ufficiale. Vai, porti del corone di fiori, fai un piccolo discorso con le autorità ufficiali, con il sindaco del paese, con il sindaco della, diciamo, città, o con il presidente della Repubblica se sei a Roma, con il prefetto, con a volte anche con gli industriali, no, gli industriali no, ma comunque, cioè. E poi i sindacati, CGL, CISL, UIL, tutti tranquilli che fanno la loro cosa. Questo è il primo maggio ufficiale, sempre più disertato dai veri lavoratori, anche perché sono i sindacati stessi che non li chiamano, che non gli dicono facciamo un'assemblea, facciamo un corteo, facciamo una... Nel pomeriggio c'è la May Day, comincia a esserci, già dalla fine degli anni 90, gruppi di lavoratori auto-organizzati di precari vanno in piazza a Milano, in piazza 24 maggio a Porta Ticinese, con uno stile totalmente differente, quindi non con i labari, con le bandierine dei sindacati, con le autorità, con la gente in giacca e cravatta, il loro cappottino, primo maggio non c'è neanche più il cappottino, ma insomma la cravatta sempre c'è, ci deve essere, invece no, invece c'è, ci sono, cioè cominciano i grandi carri con dei sound system, quindi si fa un corteo per tutta la, diciamo, città, si fa una festa vera, è una festa del lavoro, facciamo una festa, e però contemporaneamente si dice guardate, noi siamo i lavoratori, noi siamo quelli, noi siamo la massa degli esclusi, noi siamo i veri protagonisti della nuova fase del lavoro, ma nessuno ci tutela, nessuno ci difende, ci vogliamo autodifendere noi. E quindi a volte si fanno anche i primi anni alcune azioni dimostrative, per esempio verso l'Agenzia del Lavoro Interinale, o verso le aziende come McDonald's o come altri che più di altri usano e sfruttano il lavoro come dire, precario. Dapprima questi cortei partono con poche centinaia, poche migliaia di persone i primi anni, ma bastano 2-3 anni di questa May Day, chiamata May Day Parade, di questa May Day Parade per fare sì che questa May Day Parade cresca, e adesso ci sono May Day Parade da Milano, Barcellona, Berlino, Parigi, o in tante città d'Europa, radunano decine di migliaia di persone, non poche centinaia o poche migliaia di persone, sono il vero primo maggio, il vero primo maggio è diventato il primo maggio alternativo. Questo movimento di lavoratori precari, che parte da piccoli gruppi all'inizio, di persone che a volte hanno anche un'affiliazione affettiva o anche politica con i movimenti radicali e i gruppi politici radicali degli anni evidentemente 70, insomma, ma quindi porta con sé non soltanto degli obiettivi politici diversi. Il più importante tra questi obiettivi è quello del salario garantito. Il ragionamento è semplice, è complicata questa cosa, una parola d'ordine del genere era già emersa, una rivendicazione del genere era già emersa negli anni, come dire, 70. Era l'idea di sganciare il reddito dal lavoro. Vabbè, ma come si fa? Come fanno a darci dei soldi se non lavoriamo? Negli anni 60-70 era difficile sostenere che ci dovevano dare dei soldi, sembrava una rivendicazione, cioè vogliamo un welfare, quindi dateci un po' di soldi. Cioè, in tanti paesi c'era un'indennità di disoccupazione, c'era un salario minimo garantito, c'erano tante cose così, però erano tutte cose, come dire, limitate al mondo del lavoro ufficiale. Tu perdevi il lavoro per un certo periodo, non troppo lungo, dipende lungo da paese a paese, avevi diritto a un sostegno economico dello Stato finché non trovavi un altro nuovo lavoro. Poteva durare quello che poteva durare, insomma, però. In Italia questa cosa non c'era, però, era scarsissimamente sviluppata. Ma con il capitalismo post-fordista, con il capitalismo contemporaneo, insomma, la situazione è un po', come dire, diversa. Questo è un capitalismo che riesce a valorizzare molte delle attività degli esseri umani, quindi a estrarre valore non solo da quelli che lavorano, ma anche da quelli che non lavorano. Ci sono industrie intere che si basano sulla valorizzazione, per esempio l'industria della moda, si basa sulla, no, non dell'alta moda, del proprio, come fanno? Sì, certo, c'è sempre un designer che disegna i vestiti, ma questi vestiti spesso dove nascono? Nascono da come dire, iniziative autonome delle persone, di singole persone che si fanno delle invenzioni, inventano delle cose, eccetera, e le portano per strada. E gente che non lavora nel mondo della moda, sono giovani, così, che gli viene in mente, mi metto una farfallina sulla testa, mi metto una gassa qua, mi metto una cosa. E l'industria della moda è piena, è come dire, basata su persone che vanno in giro per la città, per le varie città del mondo, a osservare questi comportamenti spontanei, questa creatività spontanea delle persone. Li guardano, li copiano, li adattano evidentemente e ci fanno dei nuovi. Tutta gente che non viene pagata. Tu che diavolo ne so, domani ti inventi una roba di metterti una sciarpa in un modo particolare, no? Ti pagano, uno ti guarda e dice, adesso questa ragazza qua è vestita così, facciamola anche noi. Vieni poi pagata? No, non, la tua creatività, una tua invenzione è stata utilizzata, sfruttata, questo è uno fra i tantissimi esempi, tutta la cosa è fatta. Quindi praticamente si potrebbe sostenere che noi tutti lavoriamo, anche quando non lavoriamo. Cioè il capitalismo riesce a valorizzare la nostra vita, non solo la nostra vita lavorativa, anche quella non lavorativa. Questo è ovviamente possibile farlo perché ci sono le tecnologie informatiche, bla bla, 40 anni fa non si sarebbe potuto fare, ma adesso si può fare. E allora da un certo punto di vista è più realistico, potrebbe essere più realistico, richiede, dice va bene, ok, io già lavoro per te anche se non voglio, bene, questo lavoro per cortesia pagamelo, e come faccio a sapere? Pagalo a tutti, dacci un minimo, tanto tu estrai un po' di soldi da tutti, dacci un minimo, dacci 1000 euro al mese, dacci 800 euro al mese, dacci quello che si riesce a ottenere, come reddito di cittadinanza. Cosa vuol dire reddito di cittadinanza? È un reddito universale, abbiamo diritto tutti di campare, di vivere, eccetera, eccetera. Reddito di cittadinanza. Questa è una delle rivendicazioni che girano più dentro questi movimenti, dentro, ovviamente con tutte le caratteristiche, eccetera, eccetera. Benissimo, vabbè, adesso però non la faccio lunga perché no, l'obiettivo della strada non è quello di spiegarti le piattaforme politiche del movimento, ma quello di dire che forma, che strumento usano, vabbè, e quindi e qui viene, come dire, l'invenzione. La May Day Parade, ripeto, nata a Milano, ma poi diffusa in tutta una serie di altri paesi, non soltanto d'Italia ma anche d'Europa, in realtà nasce intorno a un personaggio che si chiama, che è San Precario. Questi gruppi si inventano un personaggio, allora, ovviamente San Precario non è né Luther Blissett né è ovvio che è un nome collettivo, certo, ma non è un nome collettivo nel senso in cui lo è Luther Blissett. Non sono ristretti gruppi di persone che decidono di non firmare più le loro attività culturali col loro nome, ma di firmare Luther Blissett o Wu Ming o Sonia Brunzel o Autonome Africa Group o quel diavolo che sia. No, è un movimento, cioè è il, come dire, un personaggio fittizio che diventa emblema e simbolo di un movimento. Qual è stata la forma e la caratteristica che è stata data? Allora, come dire, l'ispirazione è evidente, è un santo. Da che cosa deriva la cosa? Il lavoratore precario è uno che sbatte la testa, gli fanno un contratto di 6 mesi, dopo sta 4 mesi a casa prima di trovare un altro contratto di 3 mesi, 2 mesi. In quei 4 mesi cosa fa? Non sa dove sbattere la testa, come si dice anche in italiano, non sa più a che santo votarsi. Non sapere più a che santo votarsi è un modo di dire, no? Ma insomma tipico di una diciamo, cultura con una certa presenza della, ovviamente della Chiesa Cattolica, insomma, o comunque del cristianesimo, eccetera, non so più a che santo votarmi. Bene, allora questi dicono, bene, facciamolo, non sappiamo a che santo votarci, facciamolo, costruiamoci un santo noi. È evidente che quelli che hanno i gruppi che hanno dato vita alla Media Parade non, diciamo, non sono Comunione e Liberazione, quindi non hanno, insomma, è ovvio il riferimento ironico. Però è altrettanto ovvio il fatto che non c'è più la paura di assumere, anche perché è chiarissimo, diciamo, il gioco si vede molto in fretta come viene, cioè, che è un gioco. E allora quindi si prende una persona, si fa un disegnino, però si utilizzano una serie di modalità comunicative tipiche del culto dei santi, quindi si fa San Precario, si fa il santino, si fa la cosa, eccetera, eccetera. Adesso tu vai a cercare, come dire, il movimento di San Precario poi si è, insomma, sviluppato in questi anni, si è molto allargato, evidentemente, ha avuto una serie di discussioni, dibattiti interni, ma insomma San Precario dal 2001, credo, dal 2002 forse, è il santo che apre la May Day Parade, il primo camion grosso, quello che guida, quello che apre la May Day Parade, con il sound system principale a bordo, poi ce ne altri 20, 30, 40 dietro, perché arrivano da tutta la Lombardia ormai, insomma è una grande festa quella May Day, tu non so se l'hai mai vista una, ma ci vai sempre, no? ti racconto cose che tu già conosci benissimo, e quindi tu sai che davanti il primo camion ha questa icona di questo ragazzino, questa statuetta di questo giovanotto ragazzo inginocchiato con le mani tese che è stata buffa questa cosa, perché in realtà l'immagine non è quella di San Precario, è di quello che prega San Precario, no? È un po', quindi è il giovanotto che... Adesso non mi ricordo bene di quando è il primo, comunque, cioè, diciamo, il video di presentazione di San Precario viene fatto lo stesso anno in cui in cui viene creato il personaggio in qualche modo, e se non te lo ricordi te lo riassumo, comunque dovresti poterlo trovare su questi piccoli siti. Oggi non abbiamo visto siti perché abbiamo visto che qua è impossibile vedere dei siti, quindi poi ti do gli indirizzi e te li cerchi a casa, insomma. Si vede un giovanotto, che evidentemente è un lavoratore precario, che dorme di notte e ha gli incubi, non riesce, dorme ma si rigira nel letto, bla bla bla, e ci sono delle parole che rimbombano nel suo cervello, non hai lavoro, chissà domani come farei a trovare il lavoro, guarda questo qui non sa cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare. E a un certo punto, in sogno, appare a questo personaggio che dorme, appare questa persona che poi è un viso simile a quello che poi farà quello che prega, invece San Precario, insomma. È un giovanotto, diciamo lavoratore maschio, qualsiasi evidentemente, però gli appare circonfuso con un'aureola in testa, e allora questo qua non è che si sveglia, no? No, sempre nel sogno, gli dice quello, il povero lavoratore che dorme, ah, finalmente sei arrivato, San Precario, finalmente tu mi salverai, finalmente tu, dimmi cosa devo fare, cosa devo fare? E San Precario si incazza con lui e gli dice, come, allora non hai capito niente, io non posso salvarti a te, io non sono qua per, come dire, lavorare al posto tuo, lottare al posto tuo, sei tu che ti devi salvare, sei tu che devi organizzarti, che devi prendere, quindi gli lancia un messaggio, come dire, che è, diciamo, il contrario, no? del rapporto che il tradizionale pubblico cristiano ha con i santi, no? Perdi una cosa, non trovi più gli occhiali, no? Tutti quanti sappiamo, preghiamo Sant'Antonio, che è quello che è, cioè quello che ti fa trovare gli oggetti che hai perso. Il 3 ovviamente pensa che sia Sant'Antonio, che sia lui quello che ti fa trovare. Invece San Precario ti dice no, io non faccio niente per te, io non posso sostituirmi a te, non ti trovo io l'oggetto al posto tuo, non ti posso risolvere il tuo problema del lavoro al posto tuo, devi essere tu che fai qualcosa, che prendi in mano il tuo, diciamo, destino, che ti organizzi, che fai le cose. Dura molto poco questo... Diciamo però di anno in anno attorno a questo, chiamiamolo, è un nome collettivo quindi ma in modo diverso da come sono nomi collettivi degli altri, a questo personaggio è una sorta invece di simbolo del movimento, semplicemente, è una modalità di simbolizzazione, aggregazione del movimento, è un simbolo del movimento che ovviamente ha dentro di sé una forte componente ironica perché non è un movimento religioso ma fa appello ad un santo, però il rapporto che propone tra questo santo e i suoi aderenti non è quello tradizionale, quindi non è che io posso rivolgermi a Giuseppe, santo, diciamo San Precario, risolvimi tu i tuoi problemi, tu che mi puoi risolvere i problemi. San Precario non risolve niente, ma incita invece la gente ad auto-organizzarsi, a fare qualcosa per risolvere lei, essa stessa, in prima persona, i loro problemi. Adesso attualmente ci sono, prima c'era un solo sito, ma ci sono un casino di siti evidentemente che sono, allora, alcuni sono più, allora, uno mi sembra sia www.precaria.org, qui però non si trova la storia del movimento, nel senso che è il sito precaria.org, è il sito dedicato alle attività che svolgono di volta in volta piano non l'ha neanche messo, vedi qua, non lo mette neanche nella fotografia. Allora, la prima apparizione è il 29 febbraio del 2004 di San Precario. Lo creano quell'anno lì per il coso del 2004. Allora, qui non c'è, quindi me li devo ricordare a mente grosso modo io. Quindi è, allora, uno è precaria.org, poi c'è un, mi sembra, San Precario punto qualcosa, non mi ricordo più se è punto it, punto, it, it trovo difficile, sarà punto net, punto non so che cosa, San Precario, però mi pare che, se non vado errato, però tu controllateli tu poi quando sei a casa, mi sembra che i materiali storici, cioè la storia di San Precario raccontata più o meno questa data, compreso il video di cui ti ho parlato adesso, si trova a precariosan.blogspot.com, credo. Cioè sta dentro un blog. Comunque cercati tu, comunque basta che tu ti metta, cioè se tu ti metti su Google San Precario, escono più o meno tutti questi siti e tu vedi nei primi 10 c'è sicuramente quello. Poi c'è un sito della Mayday invece che è euromayday.org. Credo che ci sia ancora, adesso questo è un libro del 2009, nel 2009 c'era ancora, ma credo che sia ancora oggi. E poi ce n'è vari, insomma, perché poi di questo San Precario, se no poi vai a cercare altri siti in cui trovi queste robe, sono Indimedia, allora Indimedia devi andare a vedere, però allora www. Non so se il www c'è, comunque se non c'è te lo toglie lui, è italy.indimedia.org, perché è nell'indimedia italiano. E poi un altro sito dove trovi è quello di Global Project, www.globalproject, global tutto attaccato, globalproject in inglese, .info, dove trovi delle altre cose su. Euromayday te l'ho detta e quindi va bene, insomma. Alex Foti ha inserito questo, diciamo, questa storia. Alex Foti è uno dei fondatori di San Precario, quindi, però poi si è distinto abbastanza facilmente, insomma. A Milano quasi tutti i giovani, diciamo la generazione dei centri sociali che oggi ha 40 anni, grosso modo, hanno fatto tutta questa esperienza più o meno. Lui ha praticamente dato una specie, ti dà in questo libro una specie di mappa, riassunta anche in vari adesivi, sticker, questo è lo stile, distinto, insomma, ci sono quattro grandi aree di questo movimento, secondo lui. Una è Red, che non mette nel titolo perché è quella che lui ha abbandonato più, quindi i movimenti Red, insomma, sarebbero quelli più tradizionali, diciamo, i rossi. Adesso vediamo se ti trovo. Nei primi ci sono i rossi, Sheds of Red, che sono i comunisti, l'autonomia, i trotskisti, tutti i tipi di comunisti più vari, cioè è la parte più tradizionale del movimento, compresi anche socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera. Poi c'è la parte black è la parte più anarchica e per certi versi anche a volte un po' più, insomma, radicale, quindi c'è l'anarchismo storico, lui ci mette dentro il punk, Indimedia lo mette lì, con qualche forzatura ci mette gli hackers, che non sono effettivamente, ci mette gli wobbly, che sono i vecchi, cioè è la ripresa di una vecchia sigla, Industrial Workers of the World, che è il grande sindacato anarco-sindacalista degli Stati Uniti, dei primi del secolo, wobbly. Viene da IWW, quindi in media ci mette i Black Bloc, evidentemente, ci mette gli antifascisti, Antifa, ci mette varie cose, questa è l'area nera, l'area più, allora, sia l'area rossa che l'area nera sono aree, diciamo, tradizionali, militanti, eccetera, ma con un comportamento molto tradizionale, diciamo, molto, diciamo, politico, insomma, tradizionale. Io vengo da qui, insomma, questa è la mia storia. Adesso sono un po' più vicino a questi, ma insomma, perché ovviamente ho cambiato in tante cose. Metti Black Bloc? Mi interessano, non fanno delle cose, cioè, fanno bruciare delle banche. Cioè. cioè non è che fanno del male a nessuno, fanno saltare qualche banca. Però molto probabilmente le due componenti più nuove e più importanti di questo nuovo movimento sono la componente verde e la componente rosa, i green e i pink. Vabbè, i verdi sono ovviamente gli ecologisti, quindi è dentro a questo movimento c'è tutta un'ala, una serie di gruppi che sono, e quindi lui dentro ci mette ovviamente Greenpeace, Critical Mass, che è un grande movimento nato negli USA, ma è che è sulla questione, come sai, della bicicletta, tutti i movimenti sul clima, Rising Tide, la marea che sale, il Climate Camp, tutte queste iniziative per fermare il cambiamento climatico, eccetera. L'animalismo e il vegetarianesimo nella sua versione più radicale, che è il vegan, e aggiunge lui anche delle aree, così c'è un'area che si chiama detta neoprimitivismo, sono i seguaci di un... Allora, questo neoprimitivismo per esempio è più simile, uno potrebbe anche metterlo dentro gli anarchici per certi versi, perché sembra una componente anarchica, lui però lo mette qua, qualche ragione c'è. Sono legati alle tradizioni di un certo John Zerzan, che ha scritto vari libri, tra cui alcuni anche tradotti in italiano. È un ecologismo molto forte, molto aggressivo, insomma, molto, e soprattutto radicale, cioè sostiene che bisogna andarsene via dalla civiltà, che bisogna vivere in campagna, bla bla, imparando. Entro certi limiti, un pochino, si potrebbe aggiungere una cosa che lui non dice qua, per esempio, gli steampunk. Quel piccolissimo movimento steampunk. Lo steampunk è un movimento, cioè come il cyberpunk, nasce come movimento letterario, cioè sono delle opere, e però poi adesso è diventato in pratica, c'è un steampunk magazine fatto in America e alcuni gruppi anche in Italia, piccoli, ma diciamo ci sono, che invece praticano lo steampunk, cioè come se ci fosse stata una catastrofe e quindi tu non avessi tutte le... per esempio l'energia elettrica, eccetera, eccetera, ma quindi ti ingegni a vivere un po' come il neoprimitivismo, ma insomma per questo dico che è simile a questa cosa. Vabbè, questa è la galassia verde, il colore verde. E quello che ci interessa a noi principalmente però sono i rosa, sono i pink, perché questa è l'area nella quale si sono sviluppate quasi tutte le, i metodi di lotta più nuovi e più alternativi e più... ovviamente, ripeto, la vicinanza, diciamo, i travasi tra un settore e l'altro sono molto forti. Le esperienze che possono essere contese tra un settore e l'altro, diciamo, ci sono un sacco di cose pink che hanno però una componente nera, o delle cose nere che hanno una componente pink, insomma. Comunque. Allora, ovviamente la prima cosa che c'è è gli omosessuali tradizionali, cioè gay pride, gli omosessuali maschi e femmine, gay pride e la love parade di Berlino. Più in generale il GBLTQ, gay, lesbians, bisexual, transsexual e drag queen, quindi quelli che non si sa bene, cioè tutti gli orientamenti sessuali. Non è queer. Quello che si chiama queer power in genere. Queste sono le due aree. Poi c'è il rebel pink. Perché il rosa? Il rosa è perché questa è, come dire, gente che storicamente viene da un'esperienza di sinistra, però non si considerano più, non vogliono più usare il rosso tradizionale, che è quello di quelli della sinistra più tradizionale, di quelli che sono meno sensibili sia a queste tematiche, sia ai contenuti che alle forme. E quindi il Rebel Pink, che è Creative Underclass, quindi la classe, e poi la Clown Army e il Pink Samba, che sono gruppi, adesso in Italia... ci sono meno, ma ci sono anche qua in Italia, ma sono molto più diffusi all'estero, sono un esercito di clown, cioè tu vai in giro in queste manifestazioni, ci sono quelli che sono organizzati, non chiaramente militarmente, ovvio, perché, però tutti vestiti come dei clown, eccetera, che vanno e sfidano la polizia o fanno le cose. L'ultimissima cosa che ho visto, credo, è stata, ho visto delle foto su internet la settimana scorsa, non mi ricordo se erano di New York o di Berlino, in cui vedi una, cioè ci sono i poliziotti schierati, eccetera, e una torma di ragazze che vanno lì e li abbracciano, li baciano, li fanno queste cose. Cioè, e sono tutte tattiche di questo tipo, vabbè, non ti sento più, che cazzo vuoi, cioè ti ridicolizzo dal punto di vista, semmai, no? Come queste sono tattiche di questo genere. L'abbiamo detto, anarca feminism, cioè il femminismo anarchico in qualche modo, e tutte le rivolte di genere, insomma, no? Adesso bisognerebbe guardarlo poi per, insomma, vedere meglio tutte le, perché sono, però non sempre nel testo poi lui scrive delle, infatti vedi che addirittura qua non bisogna, allora, Clown Army per esempio ha un sito suo, clownarmy.org, Rhythm of Resistance, Les Panthères Roses, che è un sito francese, Sexy Shock invece, che è, allora Sexy Shock per esempio è un'esperienza italiana, sono un gruppo di ragazze che nascono in questo centro di cui ti ho parlato, che è il Link di Bologna. A un certo punto hanno aperto dentro al Link, adesso fuori dal Link, hanno aperto una specie di libreria o di cosa sexy, diciamo, dedicata al sesso, da un punto di vista femminista, però non da un punto di vista, quindi è una cosa simile a quella che può interessare anche, esatto, te per la tua rivista. Vattela a vedere il sito, perché mi sembra fatto bene. Un altro che ti può interessare è Atelier Betty, atelierbetty.noblogs.org, che sono sempre di quel giro lì. Fagoff è un sito culturale di travestiti, in pratica, è più diffuso a Roma il suo. Travestiti però sono quel genere gay, adesso non so come si chiama il nome, sono i gay barbuti, i gay baffuti, cioè, come dire, i gay non femminilizzati, quelli che anzi accentuano una sorta di aspetto mascolino, però sono totalmente gay e giocano su questa loro, quindi per dire, a volte si travestono da donna ma si tengono i peli, non si depilano, insomma, tutta, cioè, anche da un punto di vista un po' di pornflakes.it è molto interessante, quello sacco se li sai già, Amatrix non so che cosa sia, poi c'è il Queer Festival naturalmente che bisogna, insomma, guardare, la Pink Kitchen, alcune robe non le ho, come dire, studiate bene, quindi non so cosa sono, la Pink Kitchen. Femminismo a sud mi pare che sia un po' tradizionale, però lui lo mette qua, insomma, vabbè. Femminismo trattino la alto a trattino alto sud stanno in Noblogs, noblogs.org. Noblogs è praticamente il sito, diciamo, dei blog alternativi, insomma, cioè quasi tutti quelli che i blog che fanno riferimento a queste aree di movimento stanno tutti più o meno in Noblogs. Poi c'è il queer festival, questa Pink Kitchen c'ha uno spazio su MySpace, non so se ce l'abbia più, perché queste sono robe di 3 anni fa, quindi carnicete.info non l'ho mai neanche mai andato a vedere. Quello dei green che ti può interessare di più a te, ovviamente, è Critical Mass, che credo che però abbia solo il sito milanese, non so se c'è un sito nazionale. Reclaim the Streets, che li devi cercare su Wikipedia. Reclaim the Streets è un movimento americano fatto da... una cosa che può essere interessante è la Green Anarchy, che c'è un sito suo, credo, con www davanti, Green Anarchy, tutto attaccato ma con la G e la maiuscole, .info. E poi, senza www, credo ci sia ecoaction.org. Insomma, se ti vai, se guardi un po', se guardare ne hai, è tutta una galassia di... e sono le componenti di quel movimento che hanno più o meno tutte, abbracciato queste nuove tattiche diciamo, ludiche, queste che quelli di Africa Group chiamavano tattiche di agitazione gioiosa e resistenza ludica, insomma. Giocare, questo qua? No, questo io adesso c'è ancora, è uscito nel 2009, se lo credo sia scaricabile, senti, tu vai sul sito, credo che sono tutti scaricabili, vai sul sito di Xbook, di Agenzia X, vai su www.agenziax.it e trovi tutti lì. Il mio è scaricabile, quello su Facebook è scaricabile, quindi penso che sia scaricabile tutto, non so, insomma. Questo è talmente vecchio che... cioè vecchio, insomma. Il mio è più vecchio ancora, ma... sì, su agenziax.it dovresti, insomma, credo che dovresti trovare. Sì, questo, sai, ci sono un sacco di cose che a te forse ti interessano meno, però c'è un tot, alcune delle cose che ho detto io oggi molto a volo d'uccello, per esempio, sono riassunte qua, questa tabellina delle dinamica critica del capitalismo avanzato dalla Grande Depressione, figurati, addirittura dalla Grande Depressione alla Grande Recessione. Però insomma c'è questo riassuntino. Questo Alex Fossi è uno che fa un po' perché mette studi di master e PhD in economia a New York, no, perché è uno che adesso sta poi cercando lavoro. È un po' antipatichetto da un sacco di punti di vista, ragazzi, un po' così. Però a me piace comunque. Poi mi ricordo una volta, le prime volte che ci siamo incontrati nelle riunioni degli anni 90, lui mi ha preso per un poliziotto. Pensavo che fossi un infiltrato, evidentemente, siccome sono vecchio, eccetera, mi fa, oh, cazzo, cos'è? Ho detto, quella caronia, guarda che uno che dice, oh, caronia, non lo sapevo, non l'ho mai incontrato, capito? Cioè, dopodiché, sa, no, ma insomma, ci vogliamo bene, ci abbracciamo, lui è un ragazzo, adesso ha 40 anni, poco più, insomma. Allora, la volta prossima, perché adesso direi che abbiamo praticamente finito, la volta prossima, ti racconterò uno dei più interessanti spin-off di San Precario, che è Serpicanaro, che saprei già cos'è. Era venuto con una forza. Sono venuti, sì. Ma no, la ripartiamo. Sì, tutte robe di cui... queste qui sono le cose su cui abbiamo fatto la primissima autoformazione, quando c'era ancora... tanti, io le riciclo nel corso, ma insomma... No, sì, Se le racconto, diciamo, le racconto di nuovo, in modo, le metto a posto come le posso raccontare, io ci aggiungo quel po' di autobiografia che può essere divertente. Esatto. Eh?